sai che c'è il Rembo, è il figlio di un grande re. So che c'è il Rembo, è qui per portarvi a me. Lo sai che c'è il Rembo, è il figlio di un grande re. So che c'è il Rembo, è qui per portarvi a me. Ho l'impressione che c'è il rap stia arrivando. Lo sento nel mio cuore che batte come se fosse cavalcando. Può darsi il senso di un cammello. Ciò che so è soltanto di stare rappando. Dall'Italia all'Oriente la sua voce è molto potente. Nemmeno un sordo potrebbe far finta di niente. Non conosco il suo volto, porta una bandana. Potrebbe essere già qui, ma la voce è ancora lontana. Non ti preoccupare piccola, sto arrivando. Manca poco, sì, sto cavalcando. Rappando e facendo quello che hai detto. E porto il tuo nome inciso sul mio petto. Vengo a porti il mio affetto. Sarà difficile per me trovarti con il burk e un velo davanti. Aspettami istanti per istanti. Il sole sta calando e la temperatura si sta abbassando. La favola del re e della principessa si sta avverando. Eccomi qui, sono qui, vedo dietro ogni burca. E questi occhi mi stanno incantando. Non so se a te sto guardando. Il calore della sabbia mi scalda i piedi. Non so come fanno quei pescatori, non fanno le reti. Lo fanno con i piedi nudi. Se fossi io il pescatore avrei catturato te, la mia principessa d'onore. Con cui vorrei fare l'amore, sentire il sudore sul corpo tuo. Dal lontano oriente alla Magna Grecia si sente un suono clandestino, un odore bruttino. Sopra questo scenario marino scosso le siepi e fumi si innalza. Vedo la terra che mi ha ospitato ora in guerra. Sembra una lista indiana, lanciano segnali di fumo in una terra italiana. Comprerò l'accampamento indiano, farò la reggia di un grande sultano. Con ciò che avanza farò una grande stanza per te, mia piccola principessa. Ora togliti il burka e mostra la tua bellezza. Non ti preoccupare, qui la legge non è la stessa. In questo regno comando io, non mi importa nemmeno qual è il tuo dio. Ora stringimi piccolo, amore mio. Questa è una favola, si sa. Se ti levi il burka finisci in una bara. È la dura legge del Sahara. Molteplici le condanne di donne che si sognano le minigonne col fiato sul collo ogni giorno. Non possono nemmeno guardarsi intorno e incrociare lo sguardo con nessuno. Levatevi il burka, dai, è inopportuno. Ho rispetto per tutte le religioni, ma che una religione cagioni. Non esistono assolutamente ragioni. Il messaggio è per le donne afghane. Se amate il vostro dio che si chiama Allah, non dite di coprirvi il viso quando andate in strada. È una legge coranica approvata dal 1900, ma nel 1899, laddove il viso scoperto ora è grave, non avevano la paura di essere ignave. Già, ignave. E che cosa succederebbe se una donna italiana andrebbe col viso scoperto in Afghanistan? Dai, levatevi quella cosa ridicola dalla faccia. Uè, so che hai picchiato una donna. Se amma, ma te tremo.